Esther. Laura Vienor, dopo un dì di millenni agri. Rosata emozione. Straziata l'età di ordi altrove. Colse sui fiori la rosa pungente appassita. Che inutil pensier se d'acqua di vetro. Ti sento ogni sera dall'inutil sentier. Ti vedo ogni notte nel sogno inquieto. Mi alzo e fugo sull'albero assurdo e pendo dal ramo e s'arrossa il mio viso. Deriso rammento i pezzi d'amor che nel vino disprezzo e confesso al sol. Esther si fece l'or.